hanno fatto peggio che mai, hanno fatto un nuovo DPCM nel quale prevedono oltre i 70 ettari la riconversione, così vergognosamente la chiamano, di alcuni edifici importantissimi del borgo di Coltano. Quindi in questo corteo il nostro no racconterà ciò che stiamo costruendo da mesi, da anni, ciò che veramente Coltano e Pisa e tantissimi altri territori del nostro paese. Questo è per noi un inizio, e la nostra lotta e il movimento si costruiranno a partire da oggi e da domani, sinché questi due DPCM non verranno cancellati. Non vogliamo questa base per le sue conseguenze ecologiche e climatiche, per i suoi costi e il suo impatto socio-economico, perché minaccia l'economia del territorio e i posti di lavoro ad essa connessi, perché sottrae per sempre spazio pubblico agli abitanti, perché rifiutiamo di essere complici delle guerre imperialiste che gli stati-nazione portano avanti sulla pelle nostra e del pianeta in cui viviamo. Non la vogliamo qui e non la vogliamo altrove, perché anche cambiando localizzazione le dinamiche sono le stesse. Questa base è il simbolo di contraddizioni e ingiustizie che ci riguardano tutte. Non è un'eccezione, è la regola di un sistema che fa della devastazione, della precarietà e della guerra i suoi elementi costitutivi. Abbiamo imparato che nessuno si salva da solo. Per questo oggi siamo qui, da questo piccolo territorio, stiamo costruendo una nuova storia. Ci stiamo mettendo in cammino per dire che non accetteremo nessuna base per nessuna guerra. E abbiamo già scritto molte pagine, nonostante il poco tempo. Abbiamo una sfida enorme davanti a noi, ma non possiamo sottrarci. Non abbasseremo la testa, non chiuderemo gli occhi e non lasceremo che questo sopruso abbia luogo. Scriviamola insieme questa storia, la nostra. No base fino alla vittoria.